E questa è la prima canzone da cantare assieme a Buio Pesto. Si intitola Pazienza ed è molto semplice. Dovete cantare tutte le parole che fanno rima proprio con la parola pazienza. Cantare è veramente facile per chiunque ed ora ve lo dimostriamo che v'è solo un po' de pazienza. Siete pronti? Mi raccomando, seguite il ritmo. 1, 2, 3. Che v'è pazienza, comportarsi sempre con tanta prudenza, evitate fa qualsiasi scemenza per cercare di ottenere una ricompensa. C'è un po' di decenza, donde ognuno spira in faccia su sentenza e se spera solo in ta provvidenza. Gove pazienza, se ti tesseri a te mani in ta credenza, pigirà come se fisse un'avvertenza o se ti dovesci fa una penitenza. Perché al mondo non esiste l'innocenza, la tua vita è sempre troppo intensa, impegnata a sbaragliarti a concorrenza, ti devi arrivare prima qua sapienza. Che vuoi tanta pazienza, quando non è quasi niente in ta dispensa, e quello poco ormai la prossima scadenza, te costretto a una mangiante qualche mensa, ed è palanche fiate potenza per cercare di invertire questa tendenza e non essere sempre al punto di partenza. Che pazienza.